America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Sentiamo subito il presidente Barack Obama che ieri ha pronunciato un discorso che segna, secondo me, l'apertura delle ostilità politiche guardando alle elezioni di novembre. Segna l'apertura delle ostilità con un confronto naturalmente in campo economico. They talk about me like a dog. That's not in my prepared remarks, it's just, but it's true. Parlano di me come se fossi un cane. E poi aggiunge, questo non era neanche scritto nel mio discorso, però è vero, sento di dirlo. Ecco, Obama apre le ostilità rivolgendosi ai repubblicani e cerca di mobilitare una base democratica che oggi appare stanca. We've given them to clean energy companies. We've cut taxes for 95% of working Americans, just like I promised you during the campaign. You all got a tax cut. Obama qui ricorda le promesse che ha realizzato, ha dato concessioni fiscali alle aziende che operano nel settore dell'energia pulita, ha tagliato le tasse per il 95% degli americani. Qual è il problema? Il problema è che queste sue rivendicazioni, per quanto vere, alla fine non hanno prodotto i risultati voluti e dunque gli americani le ignorano. I knew it would take time to reverse the damage of a decade worth of policies that saw too few people being able to climb into the middle class, too many people falling behind. Barack Obama getta la responsabilità sui repubblicani, sull'amministrazione Bush, che per un decennio ha detto hanno gettato quei semi che poi hanno portato il paese alla rovina economica e soprattutto la classe media americana in una situazione, in una condizione disastrata, e dunque promette che cambierà le cose. Di nuovo un altro problema, lo promette questo Barack Obama ormai da 2 anni, ha ottenuto un piano di stimoli per l'economia da 787 miliardi di dollari che scadrà a settembre. Ebbene, di nuovo l'opinione pubblica non è schierata con lui. La mia impressione è che queste sue rivendicazioni e queste sue motivazioni politiche abbiano un po' fatto il loro tempo, e dunque Obama stesso se ne rende conto, perché nel suo discorso di ieri va avanti e introduce qualche cosa di nuovo. So that's why in Milwaukee today I am announcing a new plan for rebuilding and modernizing America's roads and rails and runways for the long term. I want America to have the best infrastructure in the world. We used to have the best infrastructure in the world. We can have it again. Ecco, Barack Obama entra nel vivo in questo suo discorso. Vorrei ricordarvelo, il primo discorso sull'economia, perché mercoledì ne pronuncerà un altro altrettanto importante. In questo discorso, come avete sentito dalle parole del presidente, sì, pronunciate in inglese ma direi abbastanza chiare, parla di infrastrutture, un progetto per rilanciare le infrastrutture americane, chiede al Congresso di stanziare immediatamente 50 miliardi di dollari per investire in progetti che riguardano ad esempio la costruzione di 150.000 miglia di strade, pari a 6 volte l'equatore, dice il presidente, che poi promette anche di rinnovare 4.000 miglia di linee ferroviarie, la stessa distanza che divide l'Occidente dall'Oriente, l'Est dall'Ovest, la costa dell'Atlantico da quella del Pacifico. Infine vuole rimettere a posto 150 miglia di piste di aeroporti e ristrutturare, riformare, investire in nuova tecnologia per i controllori di volo, tutto questo per ridurre disagi, ritardi e dunque portare un valore aggiunto all'economia. Poi il progetto di mercoledì, abbiamo già avuto anticipazioni, l'idea di Obama è di proporre una riduzione fiscale, un'agevolazione fiscale del 100% per le aziende che vadano a investire in qualunque bene durevole nel corso dei prossimi 2 anni. La stima degli esperti è che questa agevolazione fiscale, che era stata peraltro richiesta dai conservatori come unico modo per davvero rimettere in moto il meccanismo della crescita economica grazie a uno strumento strausato, molto collaudato, quello appunto degli ammortamenti accelerati, ecco, qui Obama dà la possibilità di un ammortamento accelerato totale. Nel corso di un anno si potrà dedurre il 100% di quello che si è speso dalle tasse. Il costo stimato per 2 anni è di circa 200 miliardi di dollari. 200 miliardi più 50 fa 250 miliardi di dollari. Dunque, di fatto, Obama ha ammesso che il suo piano originario non ha funzionato. Questo gli espone il fianco, ovviamente, alle critiche dei repubblicani, che sono già partiti all'attacco, e non è detto che gli concederanno questa possibilità, non è detto soprattutto che gliela concedano prima delle elezioni di novembre, che ormai diventano il punto di svincolo centrale in questo dibattito economico e politico. If I said the sky was blue, they'd say no. If I said fish live in the sea, they'd say no. Their slogan is no we can't. No, no, no. Se dico che il cielo è blu, mi dicono di no. Se dico che i pesci vivono nel mare, mi dicono di no, mi dicono sempre di no. Il nostro slogan era yes we can, il loro slogan è no we can't, no non possiamo. Dunque Barack Obama torna a questo punto all'attacco in modo molto più chiaro, molto più diretto. Lo fa di nuovo in quest'altro passaggio. So basically here's what this election comes down to. They're betting that between now and November you're going to come down with amnesia. Un riferimento esplicito alle elezioni di novembre, un riferimento esplicito ai repubblicani che pensano che l'elettorato democratico o l'elettorato in genere possa essere colto da amnesia, dice Barack Obama, da qui al prossimo appuntamento elettorale. Il presidente ha parlato a Milwaukee, ha parlato ieri in occasione della festa del lavoro americana, ha parlato al Labor Fest di Milwaukee, proprio una delle più importanti manifestazioni americane che si tengono sul fronte sindacale. Il discorso però era diretto a tutti gli americani. Ecco, a questo punto c'è da chiedersi, primo, se con queste sue parole innanzitutto riuscirà a convincere Washington a far passare questi suoi due progetti. Secondo, riuscirà a convincere il mercato. Abbiamo visto un mercato tutto sommato alquanto incerto. È vero, venerdì c'è stata una piccola ripresa perché si pensava che il tasso di disoccupazione forse potesse mostrare qualche miglioramento. Dal mio punto di vista non vedo come potesse davvero migliorare il tasso di disoccupazione, resta fermo al 9,6%. C'è stato un aumento di circa 60.000 nuovi salariati dipendenti grazie a assunzione nel settore privato, ma ci fermiamo lì. Un rapporto di questa mattina del New York Times dice che per esempio persino il settore tecnologico, che faceva da grosso traino per l'occupazione, a questo punto non assume più. La paralisi della forza lavoro resta il vero problema sul tavolo del presidente americano. Come se non bastassero le difficoltà sul fronte economico, per il presidente Barack Obama si è aperto ieri un altro problema. Una chiesa di denominazione cristiana, la Dove World Outreach di Gainesville in Florida, ha annunciato che per le ricorrenze dell'11 settembre, l'anniversario, il nono anniversario dell'attacco all'America, fra 4 giorni, brucerà il Corano pubblicamente. Beh, è stata una dichiarazione questa molto molto molto provocatoria, che ha già creato delle reazioni molto forti in Afghanistan. Soprattutto ha creato una reazione del generale David Petraeus, il comandante in capo delle forze al fronte afghano, il quale non solo ha chiesto di non procedere con questa idea, ma ha anticipato che se si andrà avanti ci saranno delle reazioni molto forti del popolo afghano e la vita di molti soldati americani sarà messa a rischio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. È tutto pronto per i 4 concerti dei Pavement a Central Park. Il gruppo di Stephen Malkmus suonerà al Ramsey Playfield dal 21 al 24 settembre. Dunque voglio dedicare a questo gruppo la canzone del giorno dei Pavement, Cut Your Hair, tagliatevi i capelli. Darling, don't you go and cut your hair. Do you think it's gonna make him change? I'm just a boy with a blue